Dopo 2 anni di corsa a ostacoli, quest'autunno sembra arrivato davvero il momento della verità per il digitale terrestre. Mediaset e La 7 hanno fatto le loro offerte. La Rai sembra accumulare un po' di ritardo. Una cosa è certa, dietro questa sigla DTT si nasconde qualcosa di davvero interessante che modificherà il nostro modo di guardare la televisione. Ne parliamo a Digitalk, sigla. Benvenuti alla terza puntata di Digitalk. Oggi si parla, come avrete capito, di digitale terrestre e lo facciamo con Alessandro Badì, responsabile di La 7 Carta Più, lo facciamo con Maurizio Costa, amministratore delegato di Cora, con Angelo Pettazzi, responsabile della ETV Factory di Mediaset. Buonasera. E con Andrea Oldano, che è amministratore delegato, responsabile insomma di Teletime S.p.A. Sì, buonasera. Responsabile, non amministratore, insomma, siamo pochi, ecco, ma una realtà molto interessante, in no? Insomma, meno, sì. L'abbiamo invitata per questo. Ecco, insomma, alla fine il digitale è entrato nella televisione, è entrato davvero, e sta cambiando molte cose, sta cambiando tante cose perché effettivamente la televisione sta diventando interattiva, e poi però i canali si stanno moltiplicando, e come dicevamo prima ci sono molte offerte in corso, alcune davvero molto interessanti che ci permettono di guardare cose nuove che prima non avremmo potuto vedere. Ecco, parliamone con i nostri ospiti, ovviamente, che sono le persone adatte, perché rappresentano, insomma, sono i nomi più illustri per parlare di digitale terrestre. Ecco, io inizierei con Cora. Perché Maurizio Costa? Perché in realtà loro offrono dei servizi, giusto, per il digitale terrestre. Che cosa fate esattamente? Facciamo un pezzo di ciò che compone il digitale terrestre, cioè la parte di interattività. Cioè una forma dell'espressione di contenuto che il digitale terrestre offre, tutto ciò che è contenuto applicativo. Ecco, perché la televisione digitale terrestre deve essere interattiva. Di fatto è sicuramente uno dei concetti chiave su cui si fonda, direi, ad oggi. Perché ho sentito parlare, non so se voi cosa ne pensate, ho sentito parlare anche che, insomma, ad alcuni esperti che all'estero magari invece digitale terrestre non significa necessariamente interattività, ma significa per esempio alta definizione o un aumento dell'offerta. Ecco, cosa ne pensa Alessandro Badì? Io credo che l'approccio corretto sia quello di vedere il digitale terrestre come tutte queste opportunità insieme. Quindi televisione di alta qualità sicuramente, perché è digitale, come interattività sicuramente, ma non solo, e anche come possibilità di fare pay per view su numeri molto grandi, molto estesi, con piattaforme che possono rendere questo servizio accessibile a tanti milioni di persone. Quindi sono pezzi diversi di uno stesso business e vanno, l'approccio più corretto dal nostro punto di vista è vederlo nel loro insieme, e La 7 Televisione da questo punto di vista, anche con il supporto del gruppo Telecom Italia, di partner come Cora, approccia il business sotto tutti e tre questi aspetti. Ecco, Maurizio Costanzo, TV Sorrisi e Canzoni, qualche giorno fa ha chiesto cosa ne pensa del digitale terrestre. Lui ha risposto: me lo chieda tra 8 mesi. Però in realtà Mediaset non sta aspettando, giusto? No, assolutamente. Anzi, con Costanzo siamo proprio partiti una settimana fa, lunedì scorso, con la possibilità attraverso un'applicazione interattiva. Quindi l'interattività diventa anche uno strumento per accedere a un nuovo contenuto, un contenuto audiovisivo come il Maurizio Costanzo Show. Ecco, quindi tornando alla sua considerazione precedente, deve esserci l'interattività, crediamo di sì, insomma è una possibilità importante, proviamo a sperimentarla. Ecco, ma quali sono i tentativi di sperimentazione che avete fatto? Insomma, è ovvio, ci mancherebbe, siamo in fase di sperimentazione. È assolutamente ancora in fase di sperimentazione, ci sono ancora tanti problemi, la tecnologia, il set-top box che necessitano di maggior stabilità, ma non solo, anche la ricerca di contenuti interattivi adatti, no? È lì un po' la sfida, cosa il telespettatore vuole, che esperienza il broadcaster o chi produce contenuti interattivi vuole far vivere al telespettatore. La sfida è un po' lì, sostanzialmente, individuare quello che potrebbe davvero funzionare. Ecco, Maurizio Costa, che fa un consulente attraverso ovviamente la sua azienda in questo settore, com'è l'interattività? Come sarà l'interattività nel digitale terrestre? Ma partirà da un concetto sicuramente chiave che il dottor Pettazzi sottolineava, che alla fine comunque l'interattività è un'espressione di un contenuto, quindi comunque il digitale terrestre è contenuto e in quanto tale ci deve essere una correlazione tra contenuto, che sia flusso audio, video o contenuto interattivo. Come sarà? Come giustamente accennavate voi, in questo momento è più un come sarà di come è, perché si sta cercando comunque di capire esattamente quali sono sia i modelli, sia gli interessi reali da parte del fruitore, cioè sostanzialmente del telespettatore, che si trova di fronte a due ordini di problemi. Da un lato approcciare del contenuto nuovo, dall'altro lato un nuovo strumento e quindi delle abitudini di fruizione di un contenuto diverso, che è appunto quello offerto dalla TV digitale terrestre, con un canale sostanzialmente nuovo. Sono diverse le sperimentazioni. Oggi si è fatto molto, o comunque si è fatto tanto, su tematiche legate al cosiddetto T-Government, cioè un contenuto non content related, come si usa dire in gergo tecnico, cioè non strettamente collegato al flusso audio-video on-air, ma di fatto un contenuto di servizio che dia la possibilità al telespettatore di avere dei servizi anche di tipo dispositivo di pubblica utilità. Si può fare molto anche, e si sta facendo molto, come sta facendo Mediaset, per esempio, e la stessa La7, sul contenuto cosiddetto infotainment, cioè un contenuto che sia informativo ma che sia allo stesso tempo anche di intrattenimento. Quindi è un mondo realmente particolarmente complesso, che necessariamente parte, sta partendo dal contenuto televisivo tipico, ma che troverà nell'integrazione con la parte di interattività nuove forme di espressione di contenuto informativo, dispositivo e di questo grazie alla piattaforma, perché la piattaforma lo consente. Assolutamente, MHP, il multimedia on platform, è sostanzialmente una piattaforma che permette di creare una stretta correlazione tra contenuto, e quindi su flusso audio-video, e interattività, assolutamente sì. Ecco, ci sono, ad esempio la BBC ha scommesso molto su internet, no? Allora, c'è il satellite, c'è il digitale terrestre, c'è internet, ci sono le IPTV, il triple play, insomma, sicuramente il digitale terrestre è qualcosa di molto interessante, utile, eccetera. In particolare sembra che debba sostituire, poi magari ne parliamo meglio, la televisione, quella analogica. Ma abbiamo sicuramente degli esponenti voi... che possono aiutarci in ecco, questo. Però rappresentando in qualche modo, parlando di digitale terrestre, come mai, perché se dovesse insomma fare una specie di spot sul digitale terrestre, bisogna scommettere sul digitale terrestre e non per esempio su altre forme di interattività o di TV interattive possibili? Ma per una serie di motivi, premesso che giustamente, come diceva lei, non è l'unico canale o non è l'unico mezzo che permette a un utilizzatore di usufruire di interattività. È sicuramente però un punto di partenza importante, perché alla fine TV digitale terrestre significa televisione, cioè l'elettrodomestico o il mezzo di maggior diffusione in grado di toccare quelli che sono tutti i target possibili. Prima citavamo il T-Government, c'è stata anche una forte spinta normativa in questo senso, ma di fatto il T-Government è stato il mezzo con cui si è cercato di avvicinare un pubblico più anziano a della tecnologia. Come? Attraverso il modo più semplice, più comune, più diffuso in Italia, ma non solo in Italia, che è la televisione, evidentemente. Ecco, Andrea Aldano invece sta seguendo un progetto che in qualche modo rappresenta, mi permetta, se in realtà locali, nel senso che... Assolutamente locale. E lo ha fatto in modo, mi dicono, insomma, è la prima volta che la incontro, ma davvero, insomma, onorevole, nel senso che ha fatto un lavoro, una TV tutta interattiva, tutta digitale, con il patrocinio, mi dica se sbaglio, del Politecnico di Torino o comunque una televisione del Politecnico di Torino. Sì, allora noi abbiamo deciso a livello di editori locali di passare completamente ad una emissione televisiva in digitale terrestre, e questo ha comportato il dover ricercare dei contenuti per non limitarsi a dover trasmettere soltanto i nostri, che hanno una caratteristica prettamente locale, e che quindi non volevamo usare la televisione digitale, cioè il nuovo mezzo tecnologico, per fare una replica di quello che era il nostro analogico. E quindi abbiamo presentato dei progetti, e uno di questi progetti è stato quello che abbiamo presentato appunto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, sulla creazione di una televisione dell'Università degli Studi di Torino. Il progetto è stato approvato e da marzo di quest'anno è in onda sul nostro MUX del Piemonte il canale Extracampus, che è il canale dell'Università appunto degli Studi di Torino, con intenti formativi appunto. Si vede solo in Piemonte, sì, per ora sì. E per ciò che riguarda invece i contenuti interattivi, in mezzo a tutta questa incertezza, cioè come saranno i contenuti interattivi di tutto questo mondo che di nuovo che si va a creare, noi abbiamo scelto di intraprendere una strada ben specifica, che sono la ricerca di applicazioni interattive che fossero di pubblica utilità, con una particolarissima attenzione a quella che è la fruibilità del servizio. Quindi non è soltanto la trasposizione di un concetto preso da internet, ma usiamo i dati di internet, cioè i dati XML che sono già performatati per internet, per creare delle applicazioni tenendo in considerazione la possibilità di usarla nel modo più semplice possibile, considerando anche i mezzi dei decoder digitali, che siano appunto facilmente utilizzabili e soprattutto non strettamente legati a un T-government piuttosto che a cose eccessivamente complesse da concepire. A proposito, i costi di produzione, poi volevo girare la domanda anche agli altri ospiti, sì. Per la TV digitale terrestre, sì. Sono simili, uguali, molto diversi da quelli della TV in etere tradizionale piuttosto che dalle altre forme, come dicevo, IPTV e così via? Ma di sicuro per voi, la vostra, per noi cambia fondamentalmente, nel senso che lo sforzo economico che è stato necessario fare per aggiornare le attrezzature di trasmissione, quindi di alta e di bassa frequenza, è stato notevole, soprattutto da parte del nostro partner principale, che è nello specifico un editore con cui collaboriamo da anni, che ha una rete che ha dovuto conformare sul Piemonte, quindi abbiamo unito canali e risorse per questo. E dal punto di vista della produzione video, non potendo noi competere con i grandi dal punto di vista anche proprio logistico e delle attrezzature, scegliamo di avere dei contenuti qualificati, quindi di qualificarli sempre più, ma di farli sempre più ridotti dal punto di vista del tempo, cioè quindi non fare produzioni brevi, così costano meno, in sostanza. Costano meno, tentiamo di usare le tecnologie ad alta definizione che sono uscite, ma ci concentriamo non tanto sul contenuto audio-video, che rischierebbe per noi di essere dispersivo, di diventare poco competitivi anche. Esatto, è poco competitivo rispetto a chi la televisione la fa, certo. In modo con altri mezzi, e ci concentriamo sui contenuti, proviamo a concentrarci sui contenuti interattivi, intraprendendo questa strada e avendo, insomma, magari qualche idea che vediamo se risulterà interessante. Molto, molto interessante il vostro progetto. Ecco, a proposito dell'interattività, io volevo chiedere a Badì, ma invece per la 7 carta più, l'interattività cos'è? Ecco, come la vedete, insomma, quella futura? Dunque, l'interattività non è soltanto carta più, naturalmente, no? Distinguiamo due tipologie di interattività. Un'interattività legata alla carta, e questa è chiaramente, naturalmente, correlata ai servizi a pagamento, quindi alla vendita di contenuti a pagamento. Il calcio in questi giorni è sulla bocca di tutti, ma ce ne possono essere n altri. E quindi questa è un'interattività di un certo tipo, che per noi è fondamentale, naturalmente, per erogare il servizio al cliente. E nel modello, peraltro, che utilizziamo noi, anche per poter conoscere in qualche modo i gradimenti dei clienti e i comportamenti di acquisto dei clienti nel loro complesso, naturalmente, ferma restando la privacy, senza assolutamente toccare la sfera personale, certo. Del comportamento degli individui. Poi c'è invece una interattività che è slegata, diciamo, dal fatto di avere una carta, uno smart card inserito all'interno del decoder, e questa è quell'interattività di cui si parlava precedentemente, che rende possibili, a prescindere appunto dalla carta, servizi di pubblica utilità. Servizi di pubblica utilità che vedono, per esempio, parlo del Comune di Milano. Il Comune, sì, di Milano ha lanciato in questi giorni, sviluppandolo con noi insieme appunto anche ancora, un servizio di T-Government che permette, per esempio, di ordinare certificati dalla televisione. Stanno davanti alla televisione. Con pochissime, semplicissime operazioni viene ordinato un certificato che poi viene recapitato direttamente a casa. Allora, il Comune di Milano è un bellissimo esempio. Ce ne sono almeno altri 9 di realtà di pubblica amministrazione locali con le quali stiamo lavorando, rispetto alle quali ci siamo aggiudicati dei bandi gara, diciamo così, e per le quali abbiamo sviluppato applicazioni simili. La cosa importante, a mio avviso, dal punto di vista del business, è che in questi casi il nostro cliente non è, ancorché queste applicazioni abbiano una rilevanza sociale, in qualche modo non è il cliente finale, ma il nostro cliente è la pubblica amministrazione, è la grande azienda, è la grande banca, può essere il grande ospedale, comunque un qualsiasi soggetto che abbia rapporti con molte centinaia di migliaia di persone che veda in noi un nuovo canale di comunicazione, nuovo, più immediato, più veloce rispetto agli altri. Grazie. Francesca, hai trovato qualcosa di interessante a proposito di digitale terrestre? Sì, ci sono molte informazioni sul digitale terrestre in rete. Ecco, le ascoltiamo tra qualche minuto. E eccoci, si parla di digitale terrestre. Francesca ha trovato qualcosa di interessante su internet. Lei continua a navigare sempre mentre noi parliamo e cerca cose che hanno a che fare con quello di cui stiamo appunto parlando. Francesca? Sì, Marco, ho trovato per esempio una dichiarazione del nuovo presidente della RAI, Petruccioli, che ammette il forte ritardo in tema di digitale terrestre. Sì? E sembra che sia uno dei suoi obiettivi quello di recuperare questo ritardo. Questo ritardo, bene. Allora, Petruccioli dice che il ritardo deve essere recuperato e probabilmente sembra che lo vorrà fare in fretta. Mediaset come si configura a proposito di carte a pagamento? Ma sapete tutti che la Mediaset Premium insieme alla carta La7, insomma la carta più di La7, è stato uno dei motivi, uno dei motori, uno dei driver fondamentali proprio per la distribuzione, l'acquisto e l'accettazione da parte dei telespettatori, dei cittadini, dei box interattivi. Certamente il finanziamento da parte dello Stato è stato un incentivo molto importante, però ci dovevano essere probabilmente tutte e due, no? Un forte contenuto, il calcio, e dall'altra parte la possibilità di avere accesso a un vantaggio economico è certamente stato un punto importante. Oggi siamo, credo, all'ordine di 3 milioni e mezzo di box interattivi disponibili nelle case degli italiani. Ecco, questa è già, comincia a diventare un mercato interessante, importante. È vero che ci sono comunque problematiche ancora legate al vero utilizzo del box interattivo, ci sono problemi di copertura, le grandi città certamente sono più coperte rispetto alle altre parti del paese, piuttosto che ci sono ancora problemi di sistemazione degli impianti condominiali. Ecco, non tutto è ricevibile. Nel 2006, senza aprire un'enorme parentesi, ma quindi è possibile oppure non? Ma io direi che una data formale, assolutamente formale, non è pensabile che ci sia, come dire, uno switch off completo di tutta Italia nel dicembre 2006, però ci si sta muovendo, si sta muovendo molto, molto rapidamente, i tempi sono molto stretti, anzi il DGTVI, che sapete è quell'organismo che raccoglie un po' tutte le società di broadcasting nazionali, Telecom, Mediaset, Rai, sostanzialmente si è dato come obiettivo, ma concordato tra l'altro con il governo e concordato anche con le due regioni, Valle d'Aosta e Sardegna, sì, di fare uno switch on. Io preferirei chiamarlo switch on, non switch off. Switch, no? On, switch, switch off. On, per i telespettatori abbiamo, esatto, un livello, come dicevo, piuttosto alto, no? dei nostri telespettatori. Però ecco, lo switch off è quel momento in cui si dovrebbe spegnere la trasmissione, l'erogazione del segnale via etere, quello analogico, quindi esatto, quello che insomma riceviamo con i nostri televisori tradizionali, per dire, e passare solo ed esclusivamente a quello terrestre. Ovvero, vedremo tanto fruscio forse nei vecchi televisori, quelli rimasti ancora nelle case un po' alla Blade Runner, abbandonati nelle cantine, e invece questo non succederà. Assolutamente, dovrebbe succedere, succederà questo, nel senso che l'obiettivo è il primo di febbraio 2006, io insisto a chiamarlo accensione del digitale terrestre, non spegnimento dell'analogico, certo, perché deve essere una cosa assolutamente positiva, e nelle due regioni si sta lavorando in modo importante proprio per raggiungere questo obiettivo. Certo, ma ad esempio si parla, come avevo già in qualche modo accennato all'inizio, si parla di interattività, di payment, ma l'alta definizione, il digitale terrestre, forse non è un'opportunità per ottenerla, per averla? Assolutamente sì, è un'opportunità ulteriore che offre la tecnologia. Ecco, però sappiamo che l'alta definizione richiede una quantità di banda per poter essere trasmessa importante. Quindi io non credo che sia possibile oggi, in questo momento, un momento di simulcast, ovvero di trasmissione contemporanea dei canali analogici e dei canali, degli stessi canali analogici, anche in formato digitale, non credo che ci sia proprio la capacità disponibile per poter offrire un servizio di questo tipo. Certo che là, nelle due regioni, ad esempio, dove ci sarà l'accensione del digitale terrestre al 1 febbraio 2006, ecco che là tutto quanto oggi è analogico sarà digitale. E allora sì, là già da domani, 1 febbraio, si potrà pensare di avere magari un canale in alta definizione, questo certo, sì, e sicuramente sarà più probabile, no, non sicuramente, sarà più probabile che questo canale esista poi quando ci sarà, come dire, lo spegnimento generale dell'analogico e sarà tutto quanto digitale. Switch on, insomma. Esatto. Ecco, prima parlavamo di forse possibili canali concorrenti in qualche modo, perché insomma l'IPTV eccetera, ma allo stesso tempo poi invece la connettività internet diventa forse determinante per un buon successo magari del digitale terrestre, in quanto diventa canale di ritorno, ovvero il canale di ritorno è la possibilità non solo di ricevere ma anche di trasmettere dati, questo è molto utile per ottenere ad esempio informazioni e richiederle e così via. La DSL è una buona banda per il canale di... Ecco, questo sempre ovviamente si ricade un po' nell'interattività, ma vorrei certo. Che magari, visto che la 7 gradi più in qualche modo rappresenta una forma, no? Certo. Abbastanza completa di offerta, perché è comunque un payment, quindi in quanto tale sta generando già utili, no? Quindi non è più un progetto, ma è in pratica. No. Come si configura in questo? Anche perché la 7 è di Telecom. Assolutamente. No? Per cui... Ma allora, diciamo che sono sicuramente due momenti, saranno due momenti diversi di sviluppo del mercato, no? Oggi e nel breve periodo il digitale terrestre e la gestione attraverso anche i canali di ritorno rappresentati dal doppino telefonico più che dalla rete internet o la DSL, direi. Perché è sufficiente un doppino. È sufficiente un doppino telefonico, rappresenta la realtà attuale e che, come dire, permetterà lo sviluppo di questo business con tutte le applicazioni legate all'interattività nei prossimi mesi e anni. Ma già da oggi, per arrivare poi nell'arco di un paio d'anni a una grossa diffusione nel mercato, in realtà tutto il gruppo, come sappiamo, sta lavorando, tutto il gruppo Telecom sta lavorando su adesso io la banalizzo, diciamo, come dire, un box, una scatola che consente in realtà di fare tre cose contemporaneamente utilizzando diversi canali, che sono il digitale terrestre per vedere la televisione e applicazioni interattive, sì. Navigazione in internet, sì. E quindi banda larga, qui sono sì. D'accordo naturalmente, e anche telefonare. Quindi Triple Play. Qui il ruolo fondamentale naturalmente è quello dei produttori, tra i quali c'è ancora una volta il gruppo con Pirelli naturalmente, che una volta che renderanno disponibili box di questo genere, naturalmente renderanno possibili tutte e tre queste cose contemporaneamente. A quel punto per il cliente diventa trasparente, digitale terrestre, è indifferente rete, da che parte il cliente non vede più la tecnologia. Il canale. Assolutamente. Ho capito, la tecnologia diventa trasparente, d'accordo? Ritorniamo al punto di partenza, alla fine l'elemento dominante è il contenuto e ci sono diversi canali da cui poter fruire e usufruire di questo contenuto. Però quindi... in questo momento stiamo parlando di una tecnologia e quindi in qualche modo ha delle peculiarità da scoprire. La tecnologia insomma, però da... mi permette lo strumento abilitante, come si dice in gergo tecnico, non è necessariamente il valore aggiunto, possiamo fare cose fantastiche da un punto di vista tecnologico, ma poi se non sono di interesse e di appeal per il fruitore... hanno e assume la tecnologia un valore assolutamente relativo. Certo è che in questo momento il digitale terrestre è una forma di espressione di questa tecnologia, la tecnologia può essere l'elemento trainante per innovare e quindi portare qualcosa di nuovo all'interno... Ecco, lei ha detto che la tecnologia è trasparente, è vero, sotto il punto di vista concettuale e anche strutturale, per la piattaforma forse è trasparente, però poi di fatto grazie alla tecnologia e quindi a quel tipo di peculiare tecnologia, cioè quella offerta di digitale terrestre, è possibile appunto interagire, ma abbiamo già detto questo per quanto riguarda insomma magari l'accesso a servizi tipo reti civiche, quindi pubblici, o ecco, ma per esempio anche la pubblicità sta cambiando, no? Che la pubblicità adesso si è rimessa in discussione un po', perché sta diventando interattiva, sì. Ma interattiva come? Con quale faccia? Con quali meccanismi? E poi i tempi televisivi, insomma, in poco, purtroppo il nostro Digitalk non ci permette di parlare, ma in brevemente, insomma, come cambierà la pubblicità? Sicuramente uno dei temi più dibattuti, perché sicuramente il digitale terrestre e l'interattività introducono dei potenziali nuovi modelli con cui proporre la pubblicità al telespettatore, che quindi non è più uno strumento o non è comunque un'informazione passiva, ma con cui evidentemente l'utente può interagire, così come per il resto del contenuto. È forse il tema, se vogliamo, da un certo punto di vista più complesso da affrontare, per n.000 motivazioni di modello di business, di opportunità e via dicendo. Ad oggi l'interattività è, sulla pubblicità interattiva, a mio avviso, ancora uno stadio molto embrionale. È una sorta di interattività connessa con un flusso audio-video. C'è molto da fare soprattutto su quelli che sono gli aspetti che in termini tecnico chiamiamo più di concepting, cioè far evolvere quelli che sono i format così come evolvono i format di contenuto televisivo, in modo diverso rispetto ad oggi come sono pensati. In questo senso anche altri operatori che qui non sono rappresentati, come le agenzie di comunicazione, devono a mio avviso cominciare a fare uno sforzo significativo e cominciare a pensare in modo diverso i modelli pubblicitari. Lo stanno facendo, sono in linea, sono indietro? Ci si sta, così come per il resto, cominciando a provare. Non è molto d'accordo, forse. No, no, lo stanno facendo. Secondo me le televisioni stanno facendo molto, si stanno muovendo. Chi pensa all'interattività anche, un po' meno, secondo me, chi invece pensa agli spot pubblicitari. Ma questo è tutto un altro filone. Non riguarda più la tecnologia, riguarda altri temi. Approfondire in ogni caso. Ecco, invece, Oldano, voi avete bisogno di pubblicità per mantenere... Sì, no. Sì. Assolutamente oh, sì. E come, come la declinate col digitale terrestre? Per ora la tamponiamo, perché, cioè... è perché non c'è la cultura da parte degli investitori pubblicitari tradizionali ad avvicinarsi al mezzo. C'è anche da considerare che l'investitore pubblicitario tradizionale, perlomeno quello locale, è abituato, come credo anche quelli più grossi, ad un dato. E ad oggi sul digitale terrestre non esiste un dato. Prima chiedevo ad un signore quanti decoder potessero esserci in Piemonte e non è stato in grado di rispondermi, perché di fatto non ci sono dei dati. Però, non voglio interrompere, proprio Tazzi prima ha dato dei numeri. Sì. A livello Italia, a livello nazionale. Siamo d'accordo tutti su quei numeri, sì, giusto? Volevo capire questo, certo. Prego. E quindi ad oggi andare a proporre della pubblicità tabellare su dei contenuti audio-video che stiamo costruendo con la potenza di un locale che può avere dei contenuti è abbastanza impensabile. Quindi stiamo pensando appunto di ottimizzare, di creare un metodo per poter usare l'interazione pesante in modo particolare come veicolo pubblicitario. Per fare questo abbiamo bisogno di test che ci siano e che le nostre applicazioni incomincino ad essere in aria, siano fruibili. Questo per noi è un evidente sforzo economico, concettuale, per noi come azienda locale e richiederà un po' più di tempo. Di sicuro quello che personalmente ritengo che gli spot interattivi che siano stati provati nei mesi passati sulle reti nazionali non possono in nessun modo rispondere ad una esigenza da parte di un possibile consumatore. Credo che siano... tutta questa difficoltà? Perché lo schermo è piccolo? Perché, scusate se cioè, giustamente continuo a ricordare come diceva Maurizio Costa che effettivamente sì, la tecnologia è trasparente, è vero, però in qualche modo poi ci permette, ci fa fare delle scelte. Per esempio non possiamo portare tutta l'esperienza della rete, ditemi se siete d'accordo, proprio perché già come primo punto lo schermo mostra molti punti in meno e quindi insomma la risoluzione non ci permette di scrivere cose in piccolo o di muovere un mouse, poi il mouse guai perché siamo, come diceva Marco Zamperini, che verrà ancora ospite nelle prossime puntate, e siamo la generazione quella dell'indice, mentre quella precedente era quella del pollice, insomma, no? Quindi ecco, per cui noi non usiamo il mouse per navigare, ma ancora il dito, e quindi ci rivolgiamo con il digitale terrestre e creiamo tecnologie per chi usa il dito. Quindi, ecco, a proposito di questi vincoli tecnologici, la pubblicità, per chiudere insomma con la pubblicità, se doveste immaginarlo, voi che insomma siete i maggiori in qualche modo esperti o rappresentanti del futuro, come in una parola, insomma, come sarà la pubblicità in futuro? Sarà interattiva, sicuramente. Sarà interattiva, sarà ma come? Sicuramente anche interattiva, nel senso che ci sarà anche lo strato interattivo. Come? Come ci sono oggi esempi di pubblicità interattiva, che sono sicuramente esempi primordiali, se volete, però è vero che è complicato, è vero che c'è molto da imparare, è vero che c'è da costruire un mercato di competenze per sviluppare l'interattività, la pubblicità interattiva, scusate, ma è anche vero che incomincia a dimostrarsi, a nostro avviso, a mio avviso, agli occhi di una società come Publitalia, che è sul mercato quotidianamente, sostanzialmente che è lì proprio a cercare, a stimolare il mercato in questo senso. E il sensore Publitalia ci dice che gli investitori incominciano a ragionarci, incominciano a, a guardare, a verso guardare la pubblicità per, con attenzione alla pubblicità interattiva sul digitale terrestre. Ma l'abbiamo prima leggermente diversa. Io credo che la pubblicità interattiva si arriverà, il futuro sarà di pubblicità interattiva. Ci mancano due fattori fondamentali su cui tutti quanti stiamo lavorando, che è la semplicità di collegamento al telefono e la semplicità di navigazione. Gli utenti per fare pubblicità interattiva non dovranno fare grandi cose, non serve una facilità di navigazione come quella di internet. Bisognerà scegliere dei bottoni sì o no, dare delle risposte, scegliere delle opzioni. Questo è già possibile, ma anche il mercato, perché pochi sono oggi ancora i decoder collegati, lo saranno molti di più quando la tecnologia consentirà di fare questo collegamento facilmente. Quindi nessuna barriera culturale, digitale terrestre, insomma, entra in modo semplice, non è una tecnologia, insomma, che dovrà poi far lavorare gli utenti, anzi, gli utenti a quanto pare dovrebbero avere solo vantaggi, no? A differenza magari di altri temi più ostici che abbiamo affrontato in digitale. Io vi ringrazio di essere venuti e di averci dato tutti questi contributi importanti, di averci aiutato a spiegare, insomma, ci guarda, di che cosa si tratta. Noi ci vediamo ovviamente come ogni sera, cioè come ogni giorno della settimana alle 23. Domani abbiamo una puntata dedicata al wifi, quindi rimanete con voi. Io saluto, ho già salutato gli occhi, saluto Francesca che è sempre molto brava nell'aiutarci a navigare, e vi ricordo di riconnettervi, insomma, in questo caso con sempre su ETV, con DigiTalk alle 23, canale 817. Grazie.